ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi. La serata passò tristissima per tutti. Garibaldi era molto pensieroso e non proferiva che qualche parola tronca di quando in quando per accennare al gran increscimento che aveva di dover dire addio alla sua bella impresa. La cena parve un funerale. A 3 ore di notte eravamo tutti nelle nostre camere. La villa era silenziosa e le civette stridevano sinistramente al bel chiaro della luna. Avevo un diavolo per capello e non trovai posa per tutta la notte. Appena fatto giorno, scesi giù nell'anticamera. Il generale era già alzato e lo sentivo camminare su e giù a passi misurati per la stanza. Verso le 7 venne gente da Genova e da lei ebbi notizia di quello che accadeva in città. I volontari, assembrati sulla piazza d'arme che attendevano il segnale dell'imbarco, intesero con dolorosa meraviglia l'ordine di tornarsene con Dio. È impossibile descriversi il rammarico di quei poveri figlioli che avevano trascorso la notte cantando allegre canzoni e s'era fatto sicuro un glorioso viaggio all'isola de Vespri, abbellito da tutta la poesia che danza pel capo alla gioventù. Alcuni s'avviarono a casa con le lacrime agli occhi e senza far parola, altri, e furono i più, si posero a gridare come indemoniati, dicendo essere una viltà il piantare in quel modo banco e burattini e giurando che se un capo qualunque si fosse fatto innanzi per condurli via l'avrebbero seguito non in Sicilia soltanto, ma anche all'inferno. Fu un diavoleto che sulle prime minacciava voler finire in una scena assai brutta, perché alcuni, i quali per la loro età e per la loro esperienza dovevano aver giudizio da vendere, soffiavano a più non posso in quegli esacerbati spiriti, non risparmiando a Garibaldi accuse e rimproveri a iosa. A cert'ora comparvero alla villa 10 o 12 giovinotti. Li guidava un bel ragazzo di 17 anni o poco più, biondo e ricciuto, ma con due occhi che parean fiamme. «Che cercate?» dissi loro. «Cerchiamo Giuseppe Garibaldi», rispose il caporione. «Garibaldi non vuol vedere nessuno», soggiunse. «Bisogna che ci riceva, dobbiamo parlargli», gridarono a coro. «Siamo una deputazione!» «Una deputazione? E che volete da lui? Vogliamo», ripigliò a dire il bel ragazzo, «vogliamo dirgli che si risolva a partire e che se non vuol venire con noi ci dia i mezzi che ha raccolti e partiremo senza di lui». Mi parvero tutti matti. Chi era mai al mondo che potesse tenere un linguaggio simile ad un uomo di quella fatta? Cercai di stogliergli dal loro proposito, ma fu lo stesso che dire al muro. I signori deputati cominciarono a gridare e uno di loro mi disse: «Voi, signor soldato, siete forse uno di quelli che ha piacere di non partire?» Sentii che il sangue mi saliva alla testa. Una parola di più e la tregua di Dio e di Garibaldi si rompeva nella villa Spinola. Per buona sorte venne Vecchi e, informatosi di quel che si trattava, mi disse: «Ci vuol poco accontentarli. Vada al generale e digli ciò che vogliono. Vedrai che ti dirà di farli entrare». Questo consiglio mi parve buono e dissi al generale: «Abbiamo giù alla porta una deputazione di volontari che vuol parlarle. Che cosa vogliono?» «Vogliono, cioè dicono, che se non avete voglia di andare in Sicilia con loro, andranno senza di voi. Però pretendono che diate loro i danari e le armi che raccoglieste, perché dicono che non è roba vostra». Io non dimenticherò gli occhi terribili che fece il futuro vincitore di Palermo nell'udire quelle mie parole, e per poco non mi morsi la lingua. «Ho io paura?» esclamò egli, diventando rossi in viso come la bragia. Ma in un tratto si ricompose, e con voce pacata soggiunse: «Fateli entrare». Entrarono. Io tremavo come una foglia. Non sarei entrato nei panni di quei signori deputati neppure per tutto l'oro del mondo. Il generale era ritto e con le braccia conserte al seno. Rispose con un cenno di saluto ai loro saluti e si diè a guardarli ad uno. Durò quel silenzio per 2 o 3 minuti che mi parvero un secolo. Alla fine il più giovane sciolse la lingua, che era lingua genovese, e cominciò a perorare. Quando egli ebbe finito, perorò un altro, e poi un altro, quindi cominciarono a discorrere tutti insieme, rincarando sempre la dose, con una franchezza e con un'audacia che mi fece trasecolare. Quando ebbero discorso e gridato ben bene come Dio volle, tacquero. successe un nuovo silenzio, che fu brevissimo, ma durante il quale gli occhi di Garibaldi parlarono più di 100 lingue, e quando egli si fu risolto ad aprir bocca ed ebbe cominciato a far sentire quella sua voce, il cui suono innamorava, i poveri ambasciatori cominciarono a diventar pallidi, poi rossi rossi e quindi bianchi come la carta da scrivere, e i loro occhi si empirono di lacrime. Garibaldi non rimase neppure egli a ciglia asciutte, e accomiatandoli con un gesto affettuoso si volse rapidamente e andò ad appoggiarsi al davanzale della finestra. «Pagherei oggi non so che cosa». Per rammentare le parole precise che disse in quell'occasione il generale, ma siccome il tempo me le ha cancellate dalla memoria e non me ne resta se non un'eco confusa, così taglio corto e non m'arrischio di far discorrere un eroe con le povere parole mie. Suonato che fu mezzogiorno, ripigliai la mia sciabola e, dato un bacio a Vecchi e ringraziatolo della buona ospitalità, scesi nella stanza del generale e gli dissi: «Generale, se non ha ordini da darmi, vado via. Ve ne andate? Resterei con tutta l'anima se...» «Andate, andate», soggiunse Garibaldi. «Presto ci rivedremo. Non vi perdete d'animo. Per ora non c'è da far nulla, ma il tempo verrà. Peccato, bella spedizione». Ci guardammo in silenzio per qualche minuto. «Dove andate?» ripigliò il generale. «Ad Alessandria, agli arresti di rigore e forse in fortezza. Povero Bandi! Non c'è che fare, ma dite, in caso che avessi nuovamente bisogno di voi, eccole il mio indirizzo, per carità. Se mai cambiasse proposito, non mi dimentichi. Mi faccia fare un telegramma che dica sta bene». E sia firmato col primo nome che le casca giù dalla penna, e romperò gli arresti e salterò mura e fossi per tornar qui da lei. «Non partirei senza di voi», disse guardandomi con aria affettuosa il generale, «ma è difficile che vi richiami qui, poiché ho già dato ordine che facciano i miei bauli e conto di partir domani per Caprera. Ma a proposito», soggiunse mettendo la mano sul sacchetto dei napoleoni che era sempre sulla scrivania, «avete bisogno di danaro?» «No, grazie», risposi, per quanto sapessi di non avere in tasca che pochissimi soldi, quanti appena bastavano per tornarmene in Alessandria. Partii tutto scoraggiato e triste, e presi scarpa a scarpa la via di Genova, dove giunsi in un baleno. Appena entrato in città, notai gruppi di gente che parlava e gesticolava vivacemente, e non andò molto che mi imbattei in qualche amico, dal quale seppi che il rifiuto improvviso di Garibaldi veniva censurato con indicibile asprezza, massime da mazziniani che ne dicevan corna. A quei tempi, tra Garibaldi e Mazzini, c'era ancora un po' di ruggine. Si erano lasciati tutt'altro che in buoni termini a Roma, e non s'erano più veduti di poi. I seguaci dell'uno e dell'altro esageravano i dissapori dei loro capi e non serbavano misure nel censurare. Così, mentre Garibaldi tassava spesso Mazzini di voler troppo tirata la corda e di aver sull'anima il sacrificio inutile di molta gente, e solea dire «costui vorrebbe essere anco papa», i seguaci di Mazzini dicevano del nostro Garibaldi «ira di Dio». In quel giorno, recatomi nell'ufficio del giornale L'Unità Italiana, trovai gente che se avesse avuto Garibaldi tra le mani lo avrebbe baciato coi denti. Non fu parola amara, non fu insolenza che al brav'uomo si risparmiasse. Si diceva che aveva venduto l'anima alla monarchia, che gli anni lo avevano rimbambito. Taluno disse ancora «e che mai codesto Garibaldi? Che cos'è quest'idolo? Quali cose ha mai fatto costui perché dobbiamo venerarlo in ginocchioni? Se egli non ha l'animo di mettersi in quest'impresa, lasci fare a chi fa, perché noi abbiamo gente capace di far molto meglio di quel che non farebbe lui». E qui si celebravano i nomi di diversi loro famosi capitani, quali, messi al punto, avrebbero fatto vedere in candela che la fama di Garibaldi era scroccata a buon mercato. Rammento poi che un vecchio idrofobo, del quale non ho mai saputo il nome, capitando lì mentre parlavo con Quadrio, si arrischiò a dire «Garibaldi ha paura!» A questa parola saltai su inviperito e gridai «Vecchio, che dici tu? Avresti mai detto che potesse aver paura Giovanni dalle bande nere? Tagliati la lingua e fa l'atto di contrizione!» Ed egli a me «Ragazzo, Voi non capite niente. Voi giudicate come giudica il volgo e siete innamorato matto della gran nomea di un uomo che in fondo non costa nulla, non vedete? Per dar retta al suo re ci pianta bravamente in asse, chi s'è visto s'è visto. Ma a suo marcio dispetto la spedizione si farà. La faremo noi per conto nostro e ringrazieremo la sorte che ci ha tolto di tra i piedi quell'uomo che a voi sembra un dio. Strinsi la mano a Quadrio, irritato anch'esso ma non irragionevole, e partì. Giunsi in Alessandria, che era notte buia. Entrato in casa, trovai la mia ordinanza, che era livornese, e aveva nome Oreste Cartoni. Oreste, m'hanno cercato. Eh sì, l'han cercato. Dicono che lo daranno come disertore. Non dire ad anima viva che io son qui. Domani vedremo quel che va fatto. Adesso andiamo a letto, perché son stanco morto. Dormii come un tasso. Svegliandomi, pensai al bell'imbroglio nel quale sarei andata a mettermi se mai mi chiudevano in fortezza e se mentre fossi chiuso Garibaldi mutasse proposito e partisse. Ad entrare in gabbia, pensai, c'è sempre tempo, e così mi chiusi in casa e mandai a chiamare qualche amico al quale feci esatta la confessione del mio caso. Mi fu risposto che stessi chiuso ed aspettassi, perché i giornali di quella mattina annunciavano tutt'altro che svanita irremissibilmente la spedizione in Sicilia. Stetti in casa tutto quel giorno, tenendo sempre il buon Oreste in guardia per vedere se capitasse qualche fattorino del telegrafo. Ma per quel giorno non si vide nulla. Il dì seguente aspettai in pace sino a una cert'ora, poi, non vedendo niente di nuovo, dissi al soldato: Oreste, va fuori e comprami qualche giornale di Genova. Il soldato si vestì e scese, ma in capo a 3 minuti tornò con un foglio in mano. Oh, gioia! Era un dispaccio telegrafico. L'apersi e lessi: sta bene, Francesco Nullo. Cominciai a vestirmi in fretta e furia, poi spiegai un fazzoletto e vi posi dentro una camicia, qualche paio di calze e qualche altra briccica. Un fardello che non pesava 3 libbre e non costava 4 lire. Il soldato, vedendomi fare quei preparativi, cominciò a piangere. «Che hai? Che piangi? Voglio venire anch'io. Dove? Dove va lei? No, figliuolo, è impossibile. E perché è impossibile? Perché Garibaldi ha proibito che si piglino i soldati. E poi, non voglio aver sull'anima a nessuno». Il poveretto seguitò a raccomandarsi, ed io duro sempre come un sasso. Finalmente, quando ebbi terminati i miei preparativi, dissi: «Ecco, mio buon Oreste, ti lascio erede universale. Ecco qui, tuniche, calzoni, spalline d'argento, kepi e tutto il resto della batteria. Quando leggerai sulla gazzetta che siamo partiti da Genova, vendi tutto e fa un brindisi a me, che tanto ti volli bene». Il soldato si mise il fazzoletto agli occhi. Io corsi dalla padrona di casa e le chiesi che ora fosse, perché l'orologio che doveva essere mio non era ancor fabbricato. «Le 4 vicine», rispose la buona donna. Tornai in camera e apersi il libriccino dell'orario delle ferrovie. Non c'era un minuto da perdere. Corsi alla stazione col mio soldato dietro e chiesi un biglietto di seconda classe per Genova. Ahimè, nel fare il riscontro di cassa, m'accorsi che mi mancavano a far la somma necessaria 47 soldi. Dove trovare 47 soldi? Oreste, hai tu denari? Ecco, disse il soldato togliendosi dalle tasche 2 o 3 palanche. Maledizione, esclamai e volsi gli occhi in giro. Quella guardata volse tosto la maledizione in benedizione, perché ai miei occhi scorsero una brigatella d'ufficiali che desinavano nel caffè della stazione. Fra quegli ufficiali c'era, per buona sorte, Achille Cantoni da Forlì, amicissimo mio all'università di Siena, quello stesso che poi cadde gloriosamente a Mentana e nel cui nome intitolò Garibaldi un suo libro. «Achille!» gli dissi, «dammi 5 franchi!» «Che parti?» rispose, «prendi il portamonete». «Sì, vado via con Garibaldi, vieni anche tu!» Cantoni stette sopra pensiero un momento, ma non si seppe risolvere a darmi retta. L'idea d'esser dato disertore gli metteva ribrezzo. Si alzò da tavola, m'accompagnò al treno e mi disse addio con un bacio. Quando il treno partì, il mio povero Oreste Cartoni piangeva dirottamente. Non passarono molti giorni che mi pentii forte di non averlo condotto meco, perché quando caddi ferita a Calatafimi, picciotto che avevo preso per ordinanza, mi piantò come un cane morto e andossene a far bottino, ed ebbi il fresco cuore di tornare a vedermi dopo 4 giorni, portandomi in dono all'ospedale un bel mazzo di sparagi selvatici. Arrivai in Genova con una gran pena nel cuore. Alla stazione di Busalla un impiegato della ferrovia aveva detto a voce alta: «Stasera parte Garibaldi!» «Parte stasera», ripetei tra me e me. «Bella sarebbe, per Dio, che non giungesse in tempo», pensavo. «Sarebbe bella e non canzono!» E nella smania che mi prese avrei voluto dire al macchinista: «Frusta i cavalli e ti manderò in regalo un pezzo di Sicilia!» Avvicinandomi alla porta di Villa Spinola per suonare il campanello, udii un concerto di voci festose misto alle gioconde note del pianoforte. Suonai, mi fu aperto e salii su. Garibaldi era seduto a mensa con il figlio Menotti, col Vecchi, con Fruscianti, con Nullo e due altri che non rammento. Una signora, che era la governante del padron di casa, era seduta al pianoforte e suonava l'Inno di Mameli. La sala era tutta adorna di festoni di lauro, la mensa era piena di fiori, e vi si vedeva nel mezzo un bel trofeo, sormontato da una bomba tutta arrugginita, su cui si leggeva scritto «Un bacio dalla Francia all'Italia». La mia comparsa fu salutata con un grido dagli amici, e quell'ottimo uomo del generale mi fe cenno ad avvicinarmi a lui, e porgendomi un bicchiere colmo di vino d'Orvieto mi disse: «Bevete anche voi alla buona fortuna d'Italia. 11 anni or sono vedemmo in questo giorno sotto le mura di Roma le spalle dei francesi». Era la sera del 30 d'aprile. Mi detti dell'asino 70 volte. Avevo dimenticato esser cara e memorabile quella data al glorioso difensore della città eterna, ed espiai come potevo la mia smemorataggine, rallegrandomi con lui che la santa ispirazione del rimuoversi dal suo rifiuto gli fosse venuta in un giorno così ben auspicato e solenne. Cantammo un bel pezzo, e cantò anche il generale, che parea lietissimo della sua risoluzione, e già annusava da lungi la battaglia come il buon cavallo del libro biblico di Giobbe. Per quella sera non si parlò di nulla, né mi arrischiai a dimandare un ette in presenza del generale, però quando egli ci ebbe mandati a letto, mi strinse a tu per tu col Vecchi, e da lui seppi per filo e per segno come fossero corse le faccende. Nella mattina di quello stesso giorno, Francesco Crispi e Nino Bixio eran venuti tutti allegri e trionfanti alla villa, recando a Garibaldi certe lettere e certi dispacci, in cui si diceva come i siciliani avessero rialzato il gallo e la rivolta andasse rapidamente pigliando piede nelle loro maggiori città. Si annunziava, in specie, tenga bene a mente il lettore, che Marsala fosse già in potere degli insorti, e si aggiungeva che Rosalino Pilo era a capo poco meno che d'un esercito. Il buon Vecchi, ripetendomi siffatte cose, non seppe nascondere che in quelle buone notizie, a parer suo, ci covava gatta. Infatti anche altri, e non pochi, fin da allora credettero che il Crispi inventasse di sua testa, rubando la licenza a pittore e a poeti. Ma se ciò è vero, gli si deve oggi la lode d'aver mostrato e messo in sodo che una bugia sapiente può condurre in paradiso più presto e meglio assai di una sconclusionata verità. Garibaldi, udendo quelle felici novelle, aveva meditato alquanto, poi s'era alzato vivacemente dalla sua sedia, esclamando con voce sonora e piena di gioia: «Preparate tutto! Andremo in Sicilia!» La mattina seguente, le prime parole che il generale ci disse furono queste: «Partiremo, partiremo. Io ho gran speranza di far del bene, per quanto molti dei miei amici abbiano cercato di distogliermi da questa impresa figurandomela come una pazzia». In tutta quella giornata non ebbe un minuto di requie. Le visite si succedettero alle visite, i dispacci ai dispacci, le ambasciate alle ambasciate. Bixio, Bertani, Crispi e un capitano di mare, grosso grosso, ragionarono segretamente con lui per qualche ora. Diverse volte che il generale mi chiamò per qualche servigio nella sua stanza, udii rammentare tutt'altro che in suono di benevolenza il nome del conte di Cavour, e devo confessare che sino all'ultimo egli persisté nell'idea che Cavour avrebbe volentieri mandato a rotoli la nostra impresa e avrebbe pagato una metà buona del suo sangue per saperci tutti in bocca al lupo. Un giorno lo udii dire: «Che volete? Da tutte le parti mi si vorrebbero mettere impacci tra i piedi. Io mi son fatto un eroe di pazienza e son calato agli accordi perfino col conte di Cavour. Questo uomo, lo sapete, ha venduto la mia patria, povera Nizza. Ebbene, nonostante ciò, tratto con lui da buon amico e gli chiedo 1 migliaio di fucili per andare a farci ammazzare allegramente. Mi par di non chiedere molto a costui, eh?» Di Vittorio Emanuele parlava invece con molto affetto e nutriva per lui una stima profonda. Parlandone in quegli stessi giorni soleva dire: «Dal re non desidero se non due cose sole: che ci lasci libere le mani e che non porga ascolto ai cattivi consiglieri che vorrebbero fare della nostra Italia una prefettura francese.